Stella Cometa si chiama. Penso a te prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia, tu sei l'anima mia, sei un campo di malinconia quando non sono da te, sei un campo di frutti dolcissimi quando sei qui con me, contadino del cuore. La mia gioia mi costa sudore, io ti amo e fuggo lontano, la misura di quanto ti amo è il pianeta, di ogni viaggio lontano da te sei la meta, io remaggio tu stella cometa, io remaggio tu stella cometa, mi devo allontanare da te per vederti tutta intera. Devo far finta che non ci sei, per scoprire che sei vera. Questa sera la signora dell'albergo ha cucinato le patate come le fai tu. Arrosto un po' croccante fuori, morbide nel cuore, proprio come le fai te, proprio come te, proprio come te. Mangiando le mangiavo te come una comunione, e sono scappato via perché da troppo amore non so respirare. Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, questa parola vista da lontano mi fa sentire un pellegrino, un penitente, un cavaliere errante, un mezzo deficiente. Io ti amo e fuggo lontano, la misura di quanto ti amo è il pianeta, di ogni viaggio lontano da te sei la meta, io remaggio tu stella cometa, io remaggio tu stella cometa, io remaggio tu stella cometa, io remaggio tu stella cometa. Adesso la luce del sole è sparita, la foresta si popola di nuova vita, di nuova vita. Io remaggio tu stella cometa, io remaggio tu stella cometa. Io remaggio tu stella cometa.